Ad alta voce, Massimo Popolizio legge I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello. Sì, signori, anche a Girgenti, nel paese dei corvi e delle campane a morto, Nocio Pigna, detto il propaganda, era riuscito a mettere su un fascio con tutti i sacramenti. Guardava lassù, gonfio d'orgoglio e con aria di protezione, quelle vecchie casupole del quartiere di San Michele, tane di miseria, quelle anguste viuzze storte, sudice, affossate, piene tutte di quel tanfo che suol lasciare la spazzatura marcita. Gli occhi gli sfavillavano. Più che con gli uomini se la intendeva per ora con le pietre corrose e annerite di quelle casupole, coi ciottoli malconnessi di quelle viuzze fetide e dirupate. Parlava con esse in cuor suo e diceva loro bye bye. Soprattutto per l'onore del paese aveva lottato e lottava, perché non si dicesse che Girgenti sola, quando tutta l'isola era in fermento, restava muta e come morta. Presto in quelle case, presto per quelle vie, una nuova vita avrebbe tripudiato. Era un gran dire, però, che gli dovesse costar tanta fatica il persuadere agli altri di fare il proprio bene e che tutti lo dovessero costringere ad affannarsi, a incalorirsi in quell'opera di persuasione, così che quasi quasi si poteva sospettare ci avesse qualche tornaconto. E chi glielo faceva fare? Ah, bella! Era stato messo da parte, espulso dalla società, reso nella sua stessa casa superfluo. Con le buone e con le cattive gli avevano detto e dimostrato che se ne poteva pure andare, che non si aveva più alcun bisogno di lui. Dopo averla spremuto come un limone, avergli disonorato una figlia o, come lui diceva, inzaccherata de fango la canizie, averlo calunniato e infamato, volevano buttarlo via. Ah no, queste cose al Pigna non si facevano. Non solo non era superfluo, ma anzi necessario, per Dio voleva essere necessario, a dispetto di tutti. E presto se ne sarebbero accorti gli ignoranti che non volevano riconoscerlo. Più parlava e più le sue stesse parole accrescevano la sua persuasione e la sua passione. Ma a furia di ripetere sempre le medesime cose col medesimo giro, queste alla fine gli si erano fissate in una forma che aveva perduto ogni efficacia. Gli si erano, per dir così, impostate sulle labbra come bocche di fuoco che non mandavano più fuori se non botto, fumo e stoppaccio. Dentro non aveva più nulla. Era un uomo che parlava e nient'altro. Il fascio, intanto, lo aveva messo su. Che fosse proprio tutto dei lavoratori si poteva dubitare. Neanche egli e propaganda forse avrebbe avuto il coraggio d'affermare che quegli stessi non lavoratori iscritti fossero molti per ora. Ma il forte era cominciare, e così a poco si comincia. Qua a Girgenti bisognava lavorare come le loro figli. Pazienza. Aveva cominciato a trattare con qualche presidente delle maestranze locali. Ma quelle due mani afferrate, simbolo della società di mutuo soccorso, mani tagliate, senza sangue, cioè senza colore politico, o mani col Santo Rosario e la rametta d'olivo di qualche circolo cattolico, stentavano a staccarsi, stentavano a tendersi fraternamente ai lavoratori d'altre arti e d'altri mestieri, come avevano fatto a Catania e a Palermo, per comporre un più ampio circolo, l'unione di tutte le forze proletarie, il fascio dei fasci, insomma. Luca Lizio aveva già scritto a Roma a Don Lando Laurentano, che era dei loro, vivaddio, principe e socialista, perché desse lui la spinta a tutti i perplessi e i titubanti. Una sola parola di lui, un cenno, sarebbe bastato. Si aspettava di giorno in giorno la risposta, la quale forse tardava per il dispiacere che quel buffo matrimonio del padre doveva cagionare al giovane principe. Intanto lui, noccio pigna, non perdeva tempo e non s'avviliva tra gli ostacoli. Comprendeva che sarebbe stata ingenuità far troppo assegnamento su quelle maestranze. In un paese morto come Girgenti, privo d'ogni industria, ove da anni non si fabbricavano più case e tutto deperiva in lento e silenzioso abbandono, ove non solo non si cercavano mai svaghi costosi, ma ciascuno si sforzava di restringere i più modesti bisogni. Muratori e fabbriferrai, sarti, calzolai, dipendevano troppo dai pochi cosiddetti signori. E il segreto malcontento non avrebbe trovato certo in loro il coraggio d'affermarsi apertamente all'occasione. Domani avrebbero votato tutti per quel farabutto di Capolino, a un cenno di Don Flaminio Salvo. Ma pure, entrando e iscrivendosi al partito, gli operai potevano servire d'esempio ai contadini, tirarseli dietro, ecco, come le pecore, poveretti. Pecore, però, che sapevan la crudeltà delle mani rapaci che le tosavano e le mungevano. Pecore che, se riuscivano ad acquistar coscienza dei loro diritti, a compenetrarsi minimamente di quella famosa virtù della loro forza, sarebbero diventati lupi in un punto. Parte di essi, intanto, dimorava sparsa nelle campagne e non saliva la città alta sul colle se non le domeniche e le feste. Quelli tra loro che si chiamavano garzoni, i meno imbecilliti dalla miseria perché riscotevano tutto l'anno un meschino salario, temevano troppo i castaldi o i curatoli o soprastanti, feroci aguzzini a servizio dei padroni. Restavano i braccianti a giornata, quelli che, dopo 16 ore di fatica, quando avevano la fortuna di trovare lavoro, si riducevano la sera in città, con la zappa in collo, la schiena rotta e 15 soldi in tasca, sì e no. A questi, mirava Noccio Pigna, erano i più. Ma creta su cui Dio non aveva soffiato, o la miseria aveva da tempo spento quel soffio. Creta indureta, che destava pena e stupore se, guardando, muoveva gli occhi e parlando le labbra. Aveva preso in affitto il vasto magazzino di un pastificio abbandonato al piano di Gamez, accanto alla sua casa, capace di 500 e più soci. Umido e buio, di giorno, senza aiuto di 2 o 3 candele, non ci si vedeva. Ma con quelle candele accese e certi vecchi paramenti sacri di finto damasco appesi alle pareti, aveva l'aria di un funerale. Quei paramenti avevano ornato un tempo, nelle feste solenni, la chiesa di San Pietro, di cui Noccio Pigna era stato sagrestano. Li aveva avuti in dono dal padre beneficiale di allora, quando s'erano fatti i nuovi, e li aveva conservati con la canfora e con il pepe in una vecchia cassapanca, tesoro ormai screditato. Ora, con le 10 tabelle sopra, 5 di qua e 5 di là, coi motti sacramentali del partito, Luca Lizio poteva pur dire di no. Ma gli occhi di Pigna facevano una magnifica figura. Del resto, per attirare i contadini, non vedeva male che il fascio avesse quell'aria di chiesa, e sulla tavola della presidenza aveva posto anche un crocifisso. Dietro la tavola troneggiava lo stendardo rosso ricamato da sua figlia Rita, la compagna di Luca. E Luca stava lì, dalla mattina alla sera, a studiare Marx. Marques, diceva il Pigna, a prendere appunti, a corrispondere coi presidenti di altri fasci della provincia e con quelli di tutta l'isola, e con Milano, e con Roma. Noccio Pigna stava per incasare quando da un vicoletto che sboccava nella piazzetta sentì chiamarsi piano piano da qualcuno in agguato lì ad aspettarlo, incappucciato. Psso, psso, un contadino. Il cuore gli diede un balzo in petto. Gli si accostò premuroso. Serva Voscenza, posso dirle una parolina? Come dici? Gli domandò Nocio Pigna, facendoglisi più presso, costernato dall'aria di sospetto e di mistero con cui quell'uomo si stava davanti, a parlarlo dentro il cappuccio che gli lasciava scoperti appena gli occhi soltanto. Vuoi parlare con me? Sì, signore, rispose quegli, più col cenno che con la voce. Eccomi, figlio mio, s'affrettò a dire Pigna. Vieni qua, entriamo qua, e gli indicò il portone del fascio. Ma quegli negò col capo e subito si trasse più indietro nel vicoletto. Pigna lo seguì. Non aver paura, non c'è nessuno, che puoi dirmi? L'uomo incappucciato esitò ancora un po' prima di rispondere. Volse intorno gli occhi sospettosi e poi mormorò sempre dentro il cappuccio. Mi hanno parlato a quattro occhi, persona fedata, dice che... E si interruppe di nuovo. Ma parla, parla, figlio mio, lo esortò il Pigna. Siamo qua soli, che t'hanno detto? Gli occhi sospettosi sotto il cappuccio espressero lo sforzo penoso che colui faceva con se stesso per vincere il ritegno di parlare. Ma alla fine, stringendosi più al muro e stendendo appena fuori dal cappotto una mano sul braccio del Pigna, domandò a bassissima voce: «E qua che si spartescono le terre?» E che mi sono lavito per tutto quel mistero, restò a guardarlo un pezzo di traverso, a bocca aperta. «Le terre?» disse. «Le terre no, figlio mio!» Quegli allora alzò il mento e chiuse gli occhi per un cenno di intesa e sospirò. «Ho capito!» «Ma pareva assai! M'hanno burlato!» E si mosse per andare via. Nocio Pigna lo trattenne. «Ma perché burlato? No, figlio mio, senti!» «Mi scusi, Voscenza!» disse quegli, fermandosi per fargli dar passo. «È inutile! Ho capito! Ma lascia andare!» «Aspetta, caro mio, ma se non mi dai il tempo di spiegarmi?» s'affrettò a soggiungere il Pigna. «Le terre, sì signore, verranno anche quelle. Basta volere, se noi vogliamo. Sta tutto qui!» Quegli seguitò a scuotere il capo con amara e cupa incredulità e poi disse: «Ma che dobbiamo volere noi poveretti? Ma che possiamo volere?» Pigna si scrollò urtato. «E allora, scusa, ti è, e te do le terre, va bene, è vero. Ma prima di tutto deve esserci la volontà. In te e in tutti, senza paura, capisci? Non c'è bisogno di guerra, mettiti bene in mente questo. Noi vogliamo anzi cantare inni di pace, caro mio. E il fascio è come una chiesa. E chi entra nel fascio, Voscenza, mi lascia andare. Aspetta, te voglio dire questo soltanto. Chi entra nel fascio entra a far parte di una corporazione che abbraccia, puoi calcolare, i quattro quinti dell'umanità, capisci? I quattro quinti! E non dico altro!» E agitò innanzi a quegli occhi le quattro dita di una mano e poi riprese: «Unione, corpo di Dio! E siamo tutto! Possiamo tutto! La legge la detteremo noi! Debbono per forza venire a patti con noi! Che lavora? Che zappa? Chi è che semina? Chi miete? O date tanto o niente. Questo per il momento. Il nostro programma. E vieni qua che ti spiego tutto. Voscenza, me lasci andare. Non è per me. Ma come non è per te, pezzo d'asino? Se si tratta proprio di te, della tua vita, del tuo diritto, pensaci, figlio. Guarda, il fascio è qua. Mi trovi sempre. Le signore, bacio le mani, per carità. È come se non avesse detto niente. E voltate le spalle se ne andò muro muro, guardingo. Nocio Pigna lo seguì per un pezzo con gli occhi, scrollando il capo. Corrado Selmi aveva lasciato il Veronica all'albergo in compagnia dell'altro testimonio e si recava ora in casa di Roberto Auriti che lo ospitava. Da quattro giorni appena si mostrava per via e si vedeva tutti gli occhi addosso. Parecchi curiosi si fermavano anche a mirarlo a bocca aperta, altri sbucavano dalle botteghe e si piantavano sulla soglia, addossati gli uni agli altri. Tanta curiosità l'obbligava a darsi un certo contegno contro il suo solito. Ma gli veniva da ridere. Non sapeva più dove guardare, perché gli occhi, naturalmente gai, e l'aria aperta e fresca del volto, non dessero di lui un falso concetto di petulanza. Era davvero e si sentiva giovanissimo ancora, nel corpo e nell'anima, nonostante l'età, le vicende fortunose e le tante lotte sostenute. Non un pelo bianco, né per nulla ancora appassito il color biondo dei baffi e dei capelli. Vestiva con naturale eleganza e spirava da tutta la persona, da ogni gesto, da ogni sguardo, una freschezza e una grazia che incantavano. Questa persistente gioventù, Corrado Selmi di Rosabia, la doveva al vivace e costante amore per la vita e, nello stesso tempo, al pochissimo peso che sempre le aveva dato. Né di troppi ricordi, né di troppi studi, né di troppi scrupoli, né d'aspirazioni tenaci se l'era voluta mai gravare, come fanno tanti a cui per forza poi, sotto un tal fardello, debbono le gambe piegarsi e aggobbirsi le spalle. Viaggiatore senza bagaglio, soleva definirsi, e sempre s'era imbarcato così, spiccio, leggero, per i viaggi lunghi, avventurosi e difficili. Niente da perdere, e avanti! Fallita l'insurrezione del 4 aprile, scampato per miracolo dal convento della Gancia, aveva dapprima guerrigliato con le squadre attorno a Palermo, aveva poi fatto la campagna del 1860 con Garibaldi fino a Volturno. Ma come? Senza munizioni e con un fucilaccio che non tirava, venuto da Malta per 6 ducati. Alla camera, tra tanti colleghi dalla fronte gravida di pensieri e dalla cartella gonfia di note e d'appunti, aveva fatto parte delle commissioni più difficili, senza né un lapis né un taccuino. E sempre si era dato da fare, comunque, senza mai sforzarsi. E tutto gli era riuscito facile e agevole, non schivando mai, anzi, sfidando e bravando i più gravi pericoli, le più difficili imprese, le avventure più intricate. «Oggi è male, bene domani!» Inutile richiamarlo indietro a considerare il malfatto. Scrollava le spalle, sorrideva e avanti. Avanti a ogni modo, per ogni via, senza mai indugiarsi, lasciandosi purificare dall'attività incessante e dall'amore per la vita, e rimanendo sempre alacre e schietto, largo di favori a tutti, con tutti alla mano. La vita era per lui piena di ganci che lo tiravano di qua e di là. Fermarlo, sospenderlo a uno solo per giudicarlo, sarebbe stata un'ingiustizia crudele. Ora Corrado Selmi temeva che la minaccia di una tale ingiustizia gli stesse sopra, che lo si volesse cioè agganciare per i molti debiti che era stato costretto a contrarre, per le molte cambiali che aveva in sofferenza presso una delle primarie banche di cui già si cominciavano a denunziare le magagne. Forse all'apertura della nuova camera lo scandalo sarebbe scoppiato. Debede. Cambiali, oh bella! Aveva firmato sempre cambiali lui in vita sua. A 18 anni, a Palermo, nei primi mesi del 1860, il comitato rivoluzionario non sapeva come fare. Si sperava in Garibaldi, si sperava in Vittorio Emanuele e nel Piemonte si sperava in Mazzini, ma i mezzi mancavano e anche le armi e le munizioni. Ebbene, chi aveva disposto di prendere dalla cassa di sconto del Banco di Sicilia 6.000 ducati con le firme dei signori più facoltosi? Lui. E aveva firmato lui, capolista, per 200 ducati. Lui, che non aveva neppure un carlino in tasca. Il governo provvisorio avrebbe poi pagato. Come si era fatta l'insurrezione del 4 aprile? Si era fatta così. E come aveva compiuto, lui solo, il bonificamento dei terreni paludosi che ammorbavano gran parte del suo collegio elettorale, a furia di cambiali. Poi il collegio s'era liberato della malaria e i debiti, si sa, erano rimasti a lui, perché l'impresa della coltivazione, affidata a certi suoi parenti inesperti, era fallita, e i frutti dell'opera sua, ora, se li godevano per la maggior parte tanti altri che gli davano solo le bucce, come e quando volevano, ma che però gli facevano costantemente l'onore di eleggerlo deputato. Ma Corrado Selmi vietava a se stesso ogni rimpianto. Pure, di tratto in tratto, quello dell'amore di donna Giannetta d'Atri Montalto gli assaltava e gli stizzava improvvisamente il cuore. Ma più che pena per l'amore per tutto, era rabbia per il cieco abbandono di sé nelle mani di quella donna che per più di un anno lo aveva reso la favola di tutta Roma, facendogli commettere vere e proprie pazzie. Pareva che con lei avesse giurato a se stessa di compromettersi e di comprometterlo in tutti i modi, presa da una furia di scandalo. Più per lei che per sé aveva cercato prima di frenarla, ma s'era poi sfrenato anche lui, per timore che i suoi ritegni la offendessero o che la sua prudenza le paresse da poccagine. I più grossi debiti li aveva contratti allora, sebbene non figurassero sotto il suo nome per un riguardo alla donna che gli faceva contrarre. Roberto Auriti s'era prestato con fraterna abnegazione a prender denari per lui alla banca, dopo una segreta intesa però col governatore di essa. La minacciata denunzia dei disordini di questa banca costernava pertanto Corrado Selmi, forse più che per sé, per Roberto Auriti. Ma la grave costernazione gli era in parte ovviata dalla fiducia che il governo aveva interesse, per tante ragioni, a impedire che lo scandalo scoppiasse. Sapeva bene che questo scandalo non avrebbe prodotto soltanto il fallimento di una banca, ma anche il fallimento di tutto un ordine di cose. L'appoggio del governo alla sua rielezione, nonostante che Francesco D'Atri fosse al potere, e l'appoggio alla candidatura di Roberto Auriti lo raffermavano in questa fiducia. Prima di partire da Roma, aveva promesso a Roberto di venire a Girgenti a sostenerlo nella lotta. Chiamato in fretta e furia dal telegramma del Veronica, era accorso e subito si era reso conto delle condizioni difficilissime in cui Roberto si trovava di fronte agli avversari, aggravate ora, per giunta, da quel duello. Ora Corrado Selmi rientrava in casa di Roberto esilarato di quanto aveva veduto nella villa di Colimbetra. Tutti quei fantocci là, con la divisa borbonica, che gli avevano presentato le armi. Roba da matti. Ma che splendore quella villa! Il principe, no, non si era fatto vedere. Che peccato, avrebbe tanto desiderato di conoscerlo. Eccolo là, uno che si era fissato anche lui nei suoi affetti in un tempo oltrepassato, ma che pur seguitava a vivere fuori del tempo, fuori della vita, in un modo curiosissimo. Che bellezza! Protendendo da quel suo tempo certe immagini di vita che per forza, nella realtà dell'oggi, dovevano apparire inconsistenti, maschere, giocattoli. Tutti quei fantocci là! Ah, che bellezza! Eppure quei fantocci là, caro Selmi, che vi hanno fatto ridere, gli disse donna Caterina, nelle elezioni di domani qua vinceranno voi, il vostro amico Roberto, il signor prefetto, il vostro governo e tutti quanti. Ridete ancora se vi riesce. Ombre? Ma siamo noi le ombre. Io no, la prego donna Caterina, disse allora ridendo e toccandosi il Selmi, non mi lascia almeno questa illusione. Guardi, il principe innanzi a me s'è dileguato, lui, come un'ombra. Avrei pagato non so che cosa per vedermelo venire incontro, anche per rifarmi, e Roberto lo sa, per rifarmi di un certo incontro con suo figlio a Roma, in cui toccò a me, per forza, far la parte dell'ombra. E a me, pazienza. Ma sì, lei dice bene, donna Caterina, ci ostiniamo purtroppo a voler essere ombre noi, qua in Sicilia. O inetti, o sfiduciati, o servili. La colpa è un po' del sole. Il sole ci addormenta fin anche le parole in bocca. Guardi, non può per dire, ho studiato bene la questione io. La Sicilia è entrata nella grande famiglia italiana con un debito pubblico di appena 85 milioni di capitale e con un lieve bilancio di circa 22 milioni. Vi recò inoltre tutto il tesoro dei suoi beni ecclesiastici e demaniali, accumulato da tanti secoli, ma poi povera d'opere pubbliche, senza vie, senza porti, senza bonifiche di nessun genere. Sa come fu fatta la vendita dei beni demaniali e la censuazione di quelli ecclesiastici? Doveva essere fatta a scopo sociale, a sollievo delle classi agricole. Fu fatta a scopo di lucro e di finanza. Ora, dopo tanti sacrifici fatti e accettati per patriottismo, non avrebbe il diritto l'isola nostra ad essere equiparata alle altre regioni d'Italia e in tutti i benefici, nei gradimenti di ogni genere che queste hanno già ottenuto. Non c'è stato mai verso, per quanti sforzi io abbia fatto, di raccogliere in un fascio operoso tutta la deputazione siciliana. Ma via! Via, non ne parliamo, donna Caterina. Dovrei guastarmi il sangue. Io faccio quanto posso. Poi alzo le spalle e dico, vuol dire che questo ci meritiamo noi. E si voltò verso Roberto per cambiare discorso e poi aggiunse, sai, ho visto ieri per via la moglie del tuo avversario. Caro mio, tu devi perdere per forza. Ma che bella donnina! Scusatemi, signore mie, se parlo così, ma io non avrei proprio il coraggio di vincere, neanche del nome santo della patria e della libertà, per non far piangere gli occhi di quella bella signora.